La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato alla quarta edizione romana del progetto di Gunther Demning Pietre d'Inciampo. Ad oggi si contano 37.000 sanpietrini incastonati nelle strade di tutta Europa in memoria dei deportati razziali e politici della Shoah. Ospite ai nostri microfoni, Ada Chiara Zevi, curatrice del progetto. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato ai sinistri culti pagani del partito nazista, idee estreme e assurde essenziali per capire cosa accadde in Germania tra il 1933 e il 1945. La parola va a Dino Pesole. La memoria, soprattutto la memoria di una immane tragedia come la Shoah, è un filo sottile, un filo che rischia di dissolversi con il passare del tempo e con le ricorrenti tentazioni revisioniste che affiorano qua e là in Europa. E ora che ci si appresta, come ogni anno, a rievocare la giornata della memoria, quando si svelò al mondo in tutto il suo orrore l'enormità dello sterminio degli ebrei da parte dei nazisti, acquista un notevole valore l'iniziativa Memorie d'Inciampo a Roma, ideata dall'artista tedesco Gunther Demning, che il 14 e 15 gennaio scorsi ha installato personalmente 36 Stolpersteine, pietre d'inciampo appunto, in memoria dei deportati razziali e politici nei marciapiedi accanto alle loro abitazioni. Le nuove Memorie d'Inciampo, posate in 5 municipi, si aggiungono alle 156 pietre che Demning ha portato a Roma dal 2010 al 2012, un progetto avviato fin dal 1993. Le prime pietre vennero installate nel 95 a Colonia, da allora ne sono state collocate più di 37.000 in città tedesche ed europee. Una pietra l'ha chiesta Alberta Levi Tamin per il cugino Giorgio Levi, deportato a 17 anni. Per me è una cosa bellissima, perché non è una pietra appoggiata al muro o in un cimitero o in una piazza, non ha importanza. È per terra, una cosa luminosa, piccola, come un sasso, con nome qui viveva, in Italia hanno scritto abitava, per me è più importante dire qui viveva Giorgio Levi, che era mio cugino, non aveva ancora 17 anni. L'hanno deportato il tal giorno e non si sa dove è morto. Quel giorno solo hanno portato via 244 bambini sotto i 10 anni. E beh, questo non si può accettare, non si può accettare. Lo scorso 9 gennaio un sanpietrino ha rievocato la figura di Don Pietro Pappagallo, il sacerdote che durante l'occupazione nazista di Roma dette asilo ai perseguitati di ogni fede e condizione. Denunciato da una spia tedesca, fu arrestato, condannato a morte e assassinato alle Fosse Ardeatine il 24 marzo 1944. Il sanpietrino è commissionato da Don Francesco Pesce, parroco della chiesa Santa Maria ai Monti, che fu sede della confraternita dei catecumeni e neofiti fino alla chiusura del ghetto romano. In via Madonna dei Monti, a pochi passi dalla chiesa, Gunther Demning ha installato 19 sanpietrini in memoria dei familiari di Giulia Spizzichino, assassinati ad Auschwitz e alle Fosse Ardeatine. Su ogni pietra sono incisi nome e cognome del deportato, l'età, la data e luogo di deportazione e, quando nota, la data della morte. Il giorno e l'ora della collocazione delle pietre è annunciata agli inquilini da una lettera del municipio in cui si spiega che il progetto intende ricordare abitanti del quartiere uccisi e perseguitati dai fascisti e dai nazisti, deportati, vittime del criminale programma di eutanasia o oggetto di persecuzione perché omosessuali. L'inciampo non è fisico, ma visivo e mentale. Induce chi passa a interrogarsi su quanto accaduto in quel luogo e a quella data, intrecciando continuamente il passato e il presente. Le Stolpersteine sono finanziate da sottoscrizioni private, il costo di ognuna compresa appunto l'installazione di 100 euro. È la quarta edizione di Memorie d'Inciampo a Roma, organizzata da Arte in Memoria, presentata lo scorso 11 gennaio alla Casa della Memoria e della Storia in via San Francesco di Sales a Roma. L'iniziativa è curata da Ada Chiara Zevi. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Buonasera, grazie. Allora spieghi un po' meglio a noi e ai nostri ascoltatori intanto la portata di questa iniziativa che a noi pare molto importante e non solo perché ci avviciniamo come ogni anno a rievocare il giorno della memoria, ma perché questo è un rievocare quei fatti ogni giorno, perché questo poi è l'intento fondamentale, credo. Sì, questa iniziativa, appunto, come lei dice, è molto importante. La prova è che diciamo la sua crescita esponenziale ogni anno. Oggi abbiamo concluso oggi la quarta edizione, ormai il numero dei sanpietrini a Roma sta giungendo alla soglia dei 200, mentre, come lei ricordava, in tutta Europa sono ormai quasi 40.000. Quindi questa iniziativa è il suo carattere più evidente, diciamo, rispetto ai monumenti e ai memoriali tradizionali, è proprio questo suo carattere diffuso, questo fatto di non essere un monumento unico e centrale, ma di creare una specie di mappa della memoria a Roma che occupa i vari, che si diffonde, diciamo, nei vari municipi della città, proprio davanti all'abitazione da dove queste persone sono state deportate. E le parole, appunto, che dette da Alberta Levi Temin in occasione della prima edizione sono proprio verissime e estremamente commoventi, perché queste piccole pietre, questi sanpietrini 10 centimetri per 10, riportano effettivamente a casa persone non solo che sono state strappate all'improvviso dalla loro vita normale per andare verso il baratro, ma queste persone viene ridata una dignità di persone ridotte a numeri, persone sepolte in fosse comuni, non solo tornano a casa con un nome, un cognome, con la loro identità, ma soprattutto la pietra offre un luogo piccolissimo dove poterli ricordare. Per ogni installazione ci sono delle piccole, no, ogni installazione, diciamo, è diversa dall'altra, per certi versi è uguale, segue un rituale che è sempre lo stesso, cioè il municipio scava questo buco dove il sanpietrino dovrà essere messo, sì, e l'artista lo depone personalmente, però diciamo in ogni stazione è diverso, perché intorno a questa piccola operazione si riuniscono le famiglie e queste famiglie spesso si ritrovano tutte insieme per la prima volta, perché per la prima volta hanno un luogo in cui ricordare il loro caro. Per esempio vengono da ogni angolo del mondo, dagli Stati Uniti, da Israele, da tutte le parti d'Italia, perché finalmente hanno il modo di ricordare su un luogo i loro cari. E com'è la reazione della gente comune, dei passanti che obiettivamente non sanno nulla magari? Dunque, la reazione è molto varia, diciamo, generalmente la gente passa quando non c'è l'installazione, generalmente la gente passa, è incuriosita, è attratta, inciampa in questo piccolo quadrato lucido, no? Si ferma e legge quello che c'è scritto e diciamo rimane colpita, perché chi già sa ricorda quello che succede, chi non sa prende atto di una situazione probabilmente che non sapeva, e quindi comunque è uno shock, no? È qualcosa che ti induce o a ricordare o a conoscere. Purtroppo molto spesso le reazioni delle persone che non vogliono ricordare è molto negativa. Per esempio stamattina eravamo a Viale Giulio Cesare, stavamo mettendo 3 sanpietrini a nome, a ricordo della famiglia Veneziani, a un certo punto è uscita una signora dal portone e ha cominciato a inveire, sono dovuti intervenire i vigili, ha cominciato a inveire, dicendo io abito qua, non voglio avere queste cose qui davanti a casa mia, insomma ha cominciato a insultare la gente, per cui è dovuta essere allontanata. Ecco, a volte le persone hanno proprio delle reazioni isteriche, no? Perché effettivamente questa pietra, pur essendo così discreta, è anche una presenza molto molto forte, non solo perché è parte della città, quindi parte della storia della città, ma ti impedisce di dimenticare. Cioè io immagino questa signora dice: ma come, io ogni giorno che esco di casa, ogni giorno che rientro, io devo pensare alle persone che sono state uccise nei campi di concentramento. Cioè è una cosa forte, perché è una cosa che ti impedisce di dimenticare, ti impedisce di rimuovere, ti impedisce di negare. E tra l'altro qual è la forza, certo, di questo progetto. Se si può aggiungere anche un modo per ricordare in modo collettivo e anche attraverso testimonianze orali, quindi dei parenti che hanno assunto questa iniziativa. Assolutamente, infatti in ognuna di noi abbiamo un sito come Associazione Arte in Memoria, abbiamo un sito dove raccogliamo tutte le storie di queste persone e in ogni municipio gli studenti, le scuole del municipio sono mobilità, gli insegnanti fanno lavorare i ragazzi di queste scuole sulle storie dei deportati a cui si mettono le pietre. Quindi non è solamente una performance artistica, è certamente un progetto d'arte perché a idearlo è un artista, ma anche un progetto che stimola moltissimo la riflessione e la ricerca storica, consente intanto di acquisire delle notizie, per esempio su dove le persone abitavano, perché non sempre si sa, e quindi qui in questi casi si sa perché un parente chiede di poter mettere la pietra, e quindi per mettere la pietra deve dire dove questa persona abitava. E quindi c'è questa parte appunto di ricerca storica molto interessante anche da parte delle famiglie. Le famiglie si trovano a conoscere delle storie dei loro parenti che non sapevano prima, proprio in occasione di questo. Certo. E quindi ecco, ci sono tutti questi aspetti legati alla storia, legati alla memoria, legati poi all'arte, che sono tutti racchiusi, diciamo, in questo semplicissimo gesto di un sanpietrino 10 centimetri per 10 messo all'interno del manto stradale, quindi praticamente invisibile. Però questa idea di questa mappa diffusa e soprattutto questa idea di questo lavoro in progress, questo lavoro che non si sa quando finirà, perché ogni anno si aggiunge un tassello a questo mosaico della memoria, però l'idea di completarlo è un'idea che chissà quando, il tempo che ci vorrà per collocare, lei immagini 10 milioni di sanpietrini, è una cosa, pensi che lui dal 95 ne ha messi 40.000, pensi quanti decenni, quanto tempo ci vuole, certamente non lo finirà lui, non lo finirà i suoi discendenti, cioè è anche questa una cosa, trovo dal punto di vista etico straordinaria, l'idea che un artista dedichi il suo lavoro e la sua vita a un'opera che non vedrà mai conclusa. Certo. Trovo che è una cosa di grandissimo valore etico. Grazie, molte grazie e buona serata. Grazie a lei. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato ai culti pagani a cui si ispirarono le SS naziste. Il sogno di un mondo antico in cui i superuomini ariani possiedono poteri magici e le razze inferiori sono loro schiave. Idee irrazionali che furono usate per cercare di giustificare crimini terribili. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 21 gennaio alle 21 su History Channel. Hitler è il padrone della Germania dal 1933. Se lui è il centro del culto nazista, Heinrich Himmler ne è il sommo sacerdote. Già da prima dell'ascesa al potere dei nazisti è al comando della loro elite, la sezione di sicurezza, o Schutzstaffel, conosciuta dal mondo con le sue iniziali. SS. Himmler è il redattore capo dei Vangeli nazisti e queste sono le sue parole. Dobbiamo sistemare la questione con questo cristianesimo, la più grande piaga che potesse affliggerci nella storia, che ci ha indebolito in ogni conflitto. Martin Ruel, Università di Cambridge. Himmler ha assolutamente un ruolo chiave. Dopo Hitler è l'uomo più potente del Terzo Reich e ha fatto dell'SS un'elite. Heinrich Himmler. Per migliaia di anni la missione di questa razza bionda è stata governare ripetutamente la Terra portando felicità e cultura. Siamo alla fine dell'Ottocento. La Germania è in un periodo di forte attrazione per l'occulto. Bill Yen, autore di Hitler's Master of the Dark Arts. Era l'era delle sedute spiritiche, in cui l'ultima moda era invitare a casa un medium dopo cena per contattare gli spiriti dei morti. La proliferazione delle società segrete non avvenne solo in Germania, ma anche negli Stati Uniti, in Gran Bretagna e in altri paesi d'Europa. In città come New York e Londra è tutto abbastanza innocuo. Ma in Germania no. In tutta la Germania e l'Austria le società segrete si incontrano per discutere una questione fondamentale. Chi sono i tedeschi? La loro risposta è che i tedeschi discendono da un'antica razza conosciuta come gli Ariani. Martin Ruhl, Università di Cambridge. Ciò che definisce gli Ariani è certamente l'aspetto, le sembianze. Sono forti, potenti, muscolosi, biondi, coraggiosi in battaglia. Linda Dubrow Marshall, psicologa, Università di Glamorgan. Sembra quasi un fumetto. Dovrebbero essere dei supereroi, dei superuomini. Klaus Fischer, autore di Storia della Germania nazista. Supereroi, biondi, forti, creatori di cultura, una razza nettamente superiore. In realtà non è mai esistita una vera e propria razza ariana. Ma questo non arresta la creazione di miti intorno ai cosiddetti ariani. Alcuni dicono che siano immigrati nel nord Europa dal Tibet o da Atlantide, l'antica città scomparsa nell'oceano, oppure da una misteriosa isola chiamata Thule. Peter Levenda, autore di Satana e la svastica. Thule si riferiva a un antico paradiso nordico da cui si supponeva che la razza ariana fosse arrivata. Quindi era un paradiso freddo, nevoso e ghiacciato. Il culto idealizza Thule come l'equivalente nordico del tropicale giardino dell'Eden della Bibbia. Le idee sugli antichi ariani diventano sempre più bizzarre e sempre più popolari. Un culto sostiene addirittura che in realtà gli ariani fossero degli dei. Peter Levenda, autore di Satana e la svastica. L'idea era che all'interno del corpo umano ci fosse un'energia bioelettrica che poteva essere richiamata attraverso adeguate iniziazioni e appositi rituali, e che alcuni gruppi di esseri umani avessero il potere di controllare questa energia sacra e dirigerla come un'arma ovunque volessero. Se con rituali e iniziazioni imparavi a controllare questo potere, diventavi inarrestabile. Non avevi più bisogno di armi comuni, cannoni, pistole, aerei, razzi. Dirigevi l'energia contro i nemici e li distruggevi. I culti dicono che gli ariani hanno perso i loro poteri, commettendo un peccato mortale. Il culto imputa agli incroci di razza la trasformazione degli ariani in comuni mortali, ma posiziona ancora gli ariani in cima a una rigida gerarchia razziale, con tutti gli altri popoli al di sotto. Klaus Fischer, autore di Storia della Germania nazista. Simili visioni implicano l'esistenza di gruppi razziali che sono chiari ostacoli nel pool genico. Sono gruppi che senza dubbio distruggono la cultura. E gli ebrei appartenevano all'ultimissimo gradino di questa particolare scala degli esseri. I due estremi di questa distorta gerarchia razzista, ariani ed ebrei, sono condannati a un eterno conflitto. Martin Ruhl, Università di Cambridge. Anche se queste idee sembrano completamente irrazionali, vanno prese seriamente, perché in realtà erano abbracciate da molti tedeschi che potremmo definire ragionevoli. 1918. La Germania si sta riprendendo dalla rovinosa sconfitta della Prima Guerra Mondiale. Un popolo disperato e umiliato cerca risposte facili e idee marginali diventano pensieri dominanti. I culti ariani crescono in fretta e nel 19 i membri di uno di questi formano un partito politico. Il nuovo partito cresce rapidamente. Si chiama il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori, meglio conosciuto come il Partito Nazista. Martin Ruel, Università di Cambridge. La guerra era stata persa, c'era un'enorme crisi finanziaria e questo portò a un totale tracollo dei valori, delle credenze. La crisi produce un'iperinflazione. I risparmi di una vita vengono improvvisamente cancellati. Le pensioni perdono ogni valore e la gente si ritrova a spendere valanghe di soldi per comprare un filone di pane. I nazisti imputano la sconfitta della Germania a un complotto tra comunisti ed ebrei e si appellano all'orgoglio nazionale. Klaus Fischer, autore di Storia della Germania nazista. I nazisti fecero buona impressione ai tedeschi. Non erano come i comunisti, arruffati, trasandati, spesso indisciplinati. Avevano una bella presenza. Disprezzando i compromessi della democrazia, promettono un nuovo tipo di politica, con una forte guida e prestigio militare. Per accelerare l'ascesa al potere, i nazisti usano la violenza. Bande di teppisti addestrati intimidiscono, picchiano e addirittura uccidono gli avversari politici. Le più fanatiche di queste bande sono le SS o Schutzstaffel, che significa squadre di protezione. A farsi strada nelle SS c'è Heinrich Himmler. Nel 1929 mi fu ordinato dal Führer di prendere il comando di tutte le unità SS dell'intero Reich, allora 280 uomini in tutto, e di trasformarle in un'organizzazione scelta affidabile per il partito. Heinrich Himmler nasce nel 1900 da una famiglia della piccola borghesia nel sud della Germania. Bill Yen, autore di Hitler's Master of the Dark Arts. Himmler non era l'esatto modello del superuomo ariano. Non era biondo, non era alto, non era forte. In effetti era tutto il contrario. Ma rimediò diventando il compagno di scuola che tutti temevano. Diventò uno spione, riportando a suo padre, il direttore, informazioni sui compagni di classe. E il padre lo descriveva come un criminale nato. A 19 anni Himmler va all'Università di Monaco per studiare agraria. Laureatosi nel 23, non trova lavoro. Avendo tempo a disposizione, si dedica alla politica nazista e studia le idee dei culti segreti ariani. Avete appena ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo Il Vangelo di Hitler, regia di Paul Copland, titolare dei diritti AETN, casa di produzione Newtopia. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda lunedì 21 gennaio alle 21 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La Storia e la Memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.